1864, Torino Capitale, l'ultimo anno. La Torino Reale, la capitale di questo giovane regno d'Italia, è una città che affascina non poco gli stranieri che la scoprono. In pochissimi anni è esplosa, la sua popolazione è a quota 220.000 ormai. La città è il cuore politico, d'accordo, amministrativo va bene, ma è anche il cuore finanziario ed economico del regno. C'è un'industria in pieno sviluppo e soprattutto c'è la nuova Banca d'Italia, istituita dalla legge votata il 21 marzo dal Parlamento, ma anche gli istituti bancari nati negli ultimi anni, su cui si sono gettati con grande fiducia i capitali stranieri, francesi, inglesi e svizzeri in testa. Il Banco Sconto e Sete di Torino, il Credito Mobiliare di Torino, la Cassa di Sconto di Torino. Tutti soci come la Cassa Generale di Genova della nuova istituzione finanziaria nazionale. Nonostante la crisi economica nazionale e i molti problemi legati al processo unitario, Torino vive insomma una vera età dell'oro. Quanta distanza dal sud colpito da brigantaggio, repressione e governo poco accorto, per usare un eufemismo. Una piccola città militare diventata il teatro di un fermento che ha pochi eguali in Europa. Basta fare un giro per i caffè del centro, pieni di uomini di affari, deputati, artisti, pensatori, agenti segreti e diplomatici di tutte le potenze straniere. Basta dare un'occhiata alle tantissime nuove costruzioni e alle nuove istituzioni di questi anni. La stazione di Porta Nuova, le carceri nuove, la scuola di applicazione per ingegneri. Ora è stato dato il via anche a un progetto innovativo, un edificio immenso, altissimo, che diventerà un simbolo importante. È il nuovo Tempio israelitico, testimonianza monumentale della libertà conquistata dalle confessioni non cattoliche, ebrei e valdesi in testa, dal 1848. La comunità ebraica ha scelto come progettista l'ingegnere Alessandro Antonelli, che ha voluto introdurre alcune modifiche grandiose. Ha suggerito una serie di interventi che dovrebbero innalzare la costruzione a 113 metri, ben oltre i 47 previsti originariamente per la cupola. Il progetto però preoccupa già qualcuno. È un'impresa mai tentata e non si sa quanto alla fine verrà a costare. Paolo Piacenza, Il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.